Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 20th Century Fox presenta I Simpson. Nella più grande avventura familiare di tutti i tempi. Homer, non sta bene usare la mazza zanzare per prendere i pesci. Mi sa che hanno abboccato. Ricordano gli appassionati che sono 30 anni che noi conosciamo i Simpson. In realtà quello che state ascoltando è il trailer del film dei Simpson, una volta che la serie televisiva è diventata un film che non ha lasciato, devo dire, grande traccia nel nostro immaginario. Di cui parleremo questa mattina, che abbiamo seguito con passione attraverso le rappresentazioni dei cartoon più fortunati, che anche in Italia ormai sono diventati un cult, rappresentano un modello che è totalmente antitetico a quello che oggi viene dichiarato, cercato di essere riportato in primo piano come se fosse una reliquia da restaurare. Ma io vorrei concentrarmi sui Simpson, perché i Simpson in realtà forse sono all'origine poi di tutte le sottogenerazioni di famiglie disgraziate, in cui ci sono sempre padri imbelli o padri con una sorta di profonda e radicale radice criminale, che però non viene mai espressa attraverso comportamenti apertamente omicidi, ma attraverso un lento, deletero ma inesorabile processo di distruzione di tutti quelli che possono essere dei valori acquisiti, degli strumenti di civilizzazione. Homer Simpson è l'indizio più evidente di questa degenerazione dell'essere umano. Oggi ne parlo con due amici, con Dario Magini, che è un autore, un producer e anche un esperto di cartoon. Buongiorno Dario Magini. Buongiorno. E con Giancarlo Liviano D'Arcangio, che invece è uno scrittore e ha pubblicato vari saggi, fra cui L'invisibile è la tua vera patria, un reportage del declino, luoghi, vite dell'industria italiana che non c'è più, oppure Gloria agli eroi del mondo del sogno, Il saggiatore, dedicato al calcio. Ora, cominciamo con Dario. Dario, la famiglia Simpson, in realtà, è la famiglia in cui tutti noi vediamo un po' delle nostre famiglie. Noi tutti abbiamo avuto il sospetto di avere dei padri un po' cialtroni, delle madri che in realtà erano tutt'altro rispetto all'immagine esteriore di grande chioccia di tutti, delle sorelle o dei fratelli che abbiamo odiato, e noi stessi siamo sentiti portatori tante volte di istinti criminosi, esattamente come Bart Simpson. Come è, secondo te, questo modello, che sembra lontano da il nostro racconto quotidiano della famiglia italiana, è entrato a far parte dell'immaginario anche delle nostre famiglie? In Italia i Simpson hanno avuto una storia particolare, perché si è trattato forse del primo cartone animato adulto che è stato proposto qui da noi. Ancora molti pensano siano cartoni per bambini, li fanno vedere ai bambini, ma non sono Peppa Pig, ecco, un'altra cosa. No, il fatto che abbiano 30 anni ce li fanno vedere in modo un po' diverso. Quando all'inizio degli anni 90 i Simpson furono proposti, venivano messi in onda in prima serata, non era negli spazi del pomeriggio per i ragazzi, per i bambini, e non ebbero nemmeno tutto questo successo. È un successo che si è costruito negli anni, quando le caratteristiche peculiari della serie hanno cominciato ad essere percepibili, caratteristiche che sono appunto tematiche a volte crude, a volte sgradevoli, un lavoro enorme sulla cultura di massa prima dell'esplosione del nerdismo che c'è adesso con i film di supereroi, con la rinascita di Star Wars. A metà degli anni 90 i Simpson forse erano l'unico nel mainstream, l'unico luogo in cui persone di provenienza culturale diversa potessero riconoscersi in una specie di comunità che appunto faceva riferimento a fonti differenti che li accomunavano. Allora, Giancarlo Viale D'Arcaggio, a te faccio la stessa domanda esattamente. Quanto c'è di Simpson nella media famiglia italiana? Non quella che si cerca di rappresentare artificialmente, quella concreta, reale. Ma io credo che un discorso proprio di macrovisione della serie ci siano veramente tantissimi elementi di rappresentazione del contemporaneo. Secondo me i Simpson sono proprio una vera e propria grande narrazione, una grande macchina narrativa del contemporaneo, proprio perché innanzitutto hanno una caratteristica secondo me importantissima, cioè il fatto che sono una serie che definirei tra virgolette acustica, cioè non hanno una grandissima trama unica che ci porta da un inizio a una fine in questo queste 30 stagioni, ma hanno delle micro trame all'interno delle singole puntate che naturalmente danno la possibilità di far entrare continuamente degli stimoli diversi che arrivano dall'attualità, dal contemporaneo, anche dai grandi temi come l'ambientalismo, la presenza di Dio, eccetera. E la bellezza di questa macro narrazione, secondo me, sta nel fatto che tutti i personaggi sono sempre continuamente in lotta con il grande meccanismo sociale, diciamo, no? Ognuno dei personaggi, da Homer, da Bart, da Marge, da Lisa, sono tutti quanti in lotta continuamente con la società, cercano di una fuga dai loro personaggi, sanno che hanno un ruolo all'interno di questa società, però cercano appunto di batterlo, di superarlo, e proprio questa incomunicabilità tra di loro, tra virgolette, dà vita a tutta una serie di trame che anziché nascere appunto da un rapporto causa-effetto, dalla comunicazione di questi personaggi, invece nascono proprio dalla non comunicazione. Allora, fermiamoci solo un istante, riprendiamo poi con i Simpson, ma anche con altre famiglie maledette prese appunto dalle serie di cartoon che vengono dagli Stati Uniti, per riflettere su quelli che sono poi in fondo i limiti o gli splendori delle nostre famiglie. Melog, cronache meridiane. Dunque, la parola di Dio dimora in ognuno di noi. Voglio che facciate scappare quella parola. Lasciate che lo spirito... Che cosa c'è, Ned? Il buon signorino mi sta dicendo di confessare una cosinaina. Un immodesto senso di orgoglio nella nostra comunità. Qualcun altro? Riprendiamo a parlare di Simpson qua. Scena naturalmente nella chiesa, perché i Simpson la domenica vanno a messa, è un pastore protestante, li porta a messa, c'è il vicino Ned Flanders di Homer Simpson, che è esattamente l'opposto, potremmo dire è il prototipo del cellino, va sempre in chiesa, educa i figli alla religione, ma tanto però che Simpson, la famiglia Simpson ucciderà la moglie Ned Flanders. Sì, è anche diciamo, una religiosità ancora più gioiosa di, senza nemmeno quella, sì, diciamo, molto quella americana questo, di che possiamo riscontrare nelle comunità che fanno questo tipo di cose. Sì, è una specie di riflesso ribaltato di Homer, ha tutti i difetti, ha tutti i pregi che Homer vorrebbe avere. Ne o che subisce forse... le angherie con il sorriso sulle labbra. Continuando a volergli bene. E alla fine, ecco, questo è interessante, la presenza di... Intanto è un personaggio che introduce tematiche forse non frequentate così tanto da questo tipo di narrazione. E per la prima volta in un cartone animato di questo tipo c'è la morte. La moglie di Ned Flanders muore, con una conseguenza reale sul resto della narrazione. Cioè è un punto fermo al di là del quale tutti i personaggi in rapporto a lui cambiano. Certo, c'è un sadismo, è una sorta di Job, gli tolgono anche l'unica donna che avrà nella vita, perché lui super credente non si avvicinerà mai a nessuna donna. Un momento, c'è una puntata in cui vanno a Las Vegas, si ubriacano e si trovano la mattina dopo sposati con due avventuriere del posto, e Ned è pieno di sensi di colpa perché da buon credente non potrà avere nessun'altra donna. Sì, perché nella sua concezione della vita le grandi trasgressioni sono guardare un poster, mangiare la cioccolata, insomma cose assolutamente... I bambini educati esattamente l'opposto di Bart Simpson, aspettano sempre la fine del mondo, giocano al piccolo lebbroso e l'altro che lo cura. No, c'è una bella puntata in cui Marge, la madre di Bart, lavora come babysitter per i figli dei Flanders, e finalmente conosce figli normali che danno soddisfazioni da madre che lei ha sognato per tutta la vita e che non riceverà mai. Per motivi opposti, sia da Bart, che è un teppista, sia da Lisa, che invece è una donna perfetta di 12 anni. Sentiamo un altro po'. Cos'è quel bagliore sinistro e accecante? Ecco Giancarlo, un altro degli elementi di questa piccola comunità di Springfield che vive tutto attorno a una centrale atomica, naturalmente è una centrale che inquina, con un terribile signore che la gestisce, infame, misantropo, misogino, odia tutti, sguinzaglia i cani, inquina, nel fiume ci sono i pesci con tre occhi, per dire... Spesso accade il fenomeno del furor di popolo. Gli abitanti di Springfield vanno con i forconi e le fiaccole, come se fosse una sorta di fenomeno medievale, capito? Che vogliono mettere qualcuno a rogo o uccidere qualcuno. Ecco, la cattiveria della comunità, quanto è raccontata? Secondo me è raccontata tantissimo e anche molto bene. Certe volte sembra veramente di leggere quasi delle pagine di Massa e Potere di Canetti, per quanto efficace poi effettivamente questa forma di narrazione. Ricordo una straordinaria puntata in cui il centro ordinatore, diciamo così, era Steve Jobs, che appunto dava il modo di affrontare una dinamica di massa, cioè questa aderenza completamente acritica e completamente smisurata al brand, no? Al brand che va di moda. E in quest'ottica la cosa meravigliosa è che veniva addirittura come dire, anticipata in una puntata di qualche anno fa, un tema che oggi va per la maggiore anche all'interno proprio della filosofia, della proprio, come dire, dell'ontologia di brand, nel senso che oggi i brand lavorano molto appunto su una quasi divinizzazione interna del loro sviluppo, sia con i dipendenti sia con i consumatori. E già i Simpson anticipavano anche questa forma di degradazione del senso critico, se vogliamo, proprio perché le dinamiche di massa sono fortemente affrontate e possono andare sia dall'accettazione acritica sia dall'esplosione di rabbia che ci possono essere quando la comunità, come sappiamo, si sente deprivata di qualcosa. La giornata di Homer Simpson è scandita dai ritmi della televisione, delle uscite quando va in birreria a bere, delle sue stravaccate sul divano, insomma una vita cialtronissima. Lui lavora alla centrale nucleare, attualmente non fa nulla, è addetto alla sicurezza, fa sempre dei grossi incidenti, si rischia sempre l'episodio cruento. Parliamo un po' adesso della moglie, Marge Simpson. Anche Homer, dal suo punto di vista, anche se rispetto al vicino Flanders è un debosciato, ha un forte rigore morale. L'unica volta che nella vita gli capiterà di trovarsi in una stanza d'albergo con un avvenente collega in trasferta e questa gli si offre, lui chiamerà la moglie, farà venire la moglie, non riuscirà nemmeno a compiere l'adulterio. In realtà è sessualmente succubo della moglie, il suo più grande divertimento è riuscire a riscuotere quello che una volta viene chiamato il debito coniugale. Alla fine è una vita molto grama, rutti, birra, non fare una mazza e riuscire ogni tanto a trombarsi la moglie. Sì, c'è questa appunto storica fuga nella città della perdizione, dove lui non consuma, lui arriva fino all'ultimo passo da compiere, ma poi non lo fa. Farà venire la moglie in albergo e consuma con lei. Anzi, diventa una specie di super rincorsa per comunque riaffermare il rapporto intoccabile con la moglie, ma lui è così anche con i figli, nonostante strozzi Bart ogni puntata, non capisca Lisa, non capisca Maggie, addirittura la bambina, quella piccola che parla solo col ciuccio. Sì, Marge Simpson è un prototipo di donna d'altri tempi, anche nell'aspetto, anche nell'acconciatura, che si scontra con i problemi degli altri tempi e con i problemi contemporanei. Perché alla fine Homer offre tutta una serie di tematiche, cioè di difetti, di degradazioni, il suo rapporto con la televisione, il suo rapporto con la responsabilità. Lei è la normalizzatrice di quella famiglia. Accumulando, infatti ogni tanto raggiunge il limite e succede qualcosa, e lì si avvia comunque una... Sì, c'è anche una puntata che lei viene messa agli arresti domiciliari, deve passare, non so, dei mesi chiusa in cantina. Diventa culturista, si fa un fisico bestiale con dei muscoli, diventa fortissima e assume anche a sua volta una figura di supereroina. C'è il paradosso, è molto presente anche nelle puntate dei Simpson. Anche lei dovrà poi confrontarsi con la tentazione di ciò che c'è fuori dalla famiglia, perché ovviamente con una famiglia così anche una donna come Marge capiterà sì, finisce l'occasione. Nelle trame di un seduttore, però non consuma mai, non riesce mai, anche lei si salva sempre. Ma alla questa fine è un po' la grande ambiguità dei Simpson, perché e forse con 30 anni di vita la cosa sta venendo sempre più fuori. Nascevano come serie che sbeffeggiava tutto ciò che era considerato intoccabile nei cartoon, probabilmente nella Disney più che in altro, però sono diventati essi stessi un classico che a volte sembra che non abbia il coraggio di arrivare fino all'estremo compimento di certe scelte. Sei d'accordo, Giancarlo? Sì. Ci sia poi una vena moralizzatrice. Alla fine i Simpson sono una grande lezione morale, perché la degradazione in qualche maniera viene punita e sbeffeggiata e vince la virtù alla fine. No, vince la virtù anche perché diciamo che in questa meravigliosa forma di narrazione i caratteri sono così poi ben strutturati e ambigui, e rispettano anche una forma molto comune di rapporto tra convenzione e personalità, no? Nel senso che sia Homer da una parte, sia Marge dall'altra, quello a cui non riescono mai a superare e ad abbattere è proprio la lotta con il loro senso di colpa, no? Essere medi, tra virgolette, significa proprio non essere in grado di stare al passo delle proprie, dei propri desideri, del proprio immaginario, della propria voglia di cambiamento. Sia Homer da un lato vuole naturalmente come avere delle grandi avventure erotiche, mentre Marge dall'altra parte è molto ferma all'interno di un sistema convenzionale di segni che riconosce, però allo stesso tempo anche lei ha grande desiderio di esprimersi, di cambiare, di rinascere, di cambiamento, di avere delle avventure così magiche e romantiche. C'è che però non riuscirà ad avere mai. Una puntata fantastica che sintetizza tutto questo. Homer e Marge ritrovano il luogo in cui consumarono il loro primo atto amore da fidanzati, che era dentro la cupoletta, la casettina del mini golf del parco di Springfield, dove si erano nascosti lì dentro, avevano consumato e vogliono ritrovare questa sensazione. Si infilano in questo posto qua, si spogliano, vengono subito sgamati perché mettono le mani dentro, tanto bene proprio Flanders che giocava a golf con i figli, sento qualcosa di molliccio, fuggono nudi nel parco e attraverso una serie di rocambolesche avventure vengono presi dal dirigibile che portava la pubblicità all'interno del grande stadio di Springfield il giorno che c'era proprio il derby. Alla fine finiscono tutti e due nudi completamente al centro dello stadio gremito di persone e tutti li vedono nudi, quindi puniti anche nella loro mesta e pallida voglia di piccola trasgressione. Sì, ma poi probabilmente l'illustrazione, l'esposizione dei difetti di Homer agli occhi di chi lo guarda non è una condanna, perché viene visto da noi forse per primi come compiacimento, è un po' anche il paradosso che c'era in Italia, non so se è un parallelo che ha senso con Alberto Sordi, cioè mostrare i difetti, metterli alla berlina, se poi ti rivolge a una massa di persone non c'è una condanna globale. Non dimentichiamo che Homer ha un padre terribile, anche se sta all'ospizio, una cattiveria unica, quando racconta i suoi ricordi, anche ambiguo, non si capisce bene, dall'incerta identità anche sessuale, il padre quando era in guerra racconta storie sì, ma molto poi, strane. Cosa c'è di meglio di sbeffeggiare Flanders, di rovinargli il giardino, lui era anche innamorato della moglie, sì. Innamorato, insomma, era attratto sessualmente. Era un continuo fare battute parlandone da viva. E la moglie la ucciderà proprio la moglie di Homer. Sì. Per errore, ma la ucciderà lei. Quindi, come vedi, Marge ha la sua vendetta. L'unica possibile rivale che ha la moglie vicino, alla fine lei la uccide. Però alla fine tutto si ricompone. Sì, e poi rimane impunita. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su intelligenza artificiale, cybersecurity, cloud e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Melog, cronache meridiane. E cosa fai, Bart? Ah, ammazzo il tempo. Oh, il mio bambino ama così tanto l'Alaska che le fa anche un applauso. Lisa, perché tu non applaudi? Dai, babbo! Applaudi per l'Alaska! Naturalmente provocano una valanga, c'è sempre un agire sconsiderato che fa sempre causa dei disastri. Homer causa sempre dei grandi disastri, va a rubare un albero di Natale, distrugge una foresta, incendia, fa sempre qualcosa, sempre un grande distruttore. Compiere gesti goffi, perché in fondo è un goffo, non è nemmeno un cattivo, è un goffo, è un piccolo furbacchione, ma proprio minimo di paese, così, però provoca sempre dei grandi disastri. Vediamo le contrapposizioni all'interno della famiglia, fra i fratelli e sorelle. Lisa Simpson è l'opposto di Bart, è la secchiona, è quella intelligentissima, è molto piena di sé. Nel futuro lei diventa il presidente degli Stati Uniti e Bart rimane sempre un drogato, un cialtrone e via dicendo. Non riesce però a essere simpatica Lisa, in effetti. No, ma il suo compito infatti non è essere simpatica. È una piccola stronza, diciamo la verità, è questo il suo ruolo. Sì, è probabilmente il fantoccio da anche amato, ma insomma da colpire da parte di Bart, che è una specie di Homer in erba, forse anche più cattivo, che vive freudianamente con l'incubo di diventare il padre o anche peggio del padre, perché lui poi diventa appunto in questi racconti proiettati nel futuro. Lui non ha nemmeno la gioia di Homer Simpson, è un personaggio di una copezza infinita, uno che sì, non ce l'ha fatta. Sì, lui sognava di essere il capo della mafia, queste cose qua. Sì, lui sognava cose immorali, non riesce nemmeno in quello. Mentre Lisa è un'incarnazione, anche con un certo anticipo, del politicamente corretto a tutti i costi, delle battaglie civili, sì. di andare contro tutti, si scaglia contro in classe, contro gli insegnanti, contro il preside. Per i suoi principi Lisa va avanti e non la fermi più. Sì, Homer fa un barbecue con un maiale intero, lei offre tutti il gaspaccio di frutta, di vegetariano, perché pensa che con quello riesce a cambiare. È una moralizzatrice fallita. No, ma la bellezza di questo personaggio è proprio questo, il fatto che nel suo grande intento moralizzatore si scontra sempre poi con tutte le energie che provengono dall'esterno, che sostanzialmente la fanno fallire sempre, no? L'abbiamo anche un altro luogo tipico, il bar di Bo, dove va Homer la sera a ubriacarsi, cioè lui, ci sono altri personaggi che ruttano, fanno schifezze, via dicendo. Quello è il luogo del totale malaffare, brucia di tutto, ha dei panda nascosti nel sotterraneo, è uno spacciatore, è un infame, anche lui ha un passato difficilissimo, che è l'unico luogo dell'estrema trasgressione, poi alla fine un baraccio e vanno a bere la birra, non c'è di più. Sì, no, Bo è meraviglioso perché ci sono in questi 30 anni infinite genesi del suo abbrutimento, diciamo. A volte viene schiacciato, l'ultima puntata che ho visto, viene schiacciato da bambino da un elefante all'arrivo del signor Barnes che annunciava una meravigliosa presenza industriale e la ricchezza per tutti, quando invece poi non è così. Ma è in quell'abbrutimento, appunto, c'è quello che dicevamo prima, cioè la spina che viene poi riportata da Canetti, che poi fa nascere questo bar cupo dove tutti vanno lì per cercare il loro loisir, che non è un loisir ma è semplicemente un abbandono. Facciamo però un salto, avevo detto che avevo annunciato, avevo parlato di varie famiglie, poi siamo dilungati su Simpson, ma c'è un'altra famiglia che vorrei mettere a confronto con quella dei Simpson, che è quella dei Griffin. Ok, ecco la notizia d'apertura. Un rivenditore di auto della nostra città ha annunciato un grande evento promozionale, una gara di mano sulla carrozzeria con in palio una moto da cross usata per il concorrente, quello che vincerà la competizione. E tra le altre notizie hanno detto che riprendono la serie Passioni. Sì, hanno detto così! Porco cacchio, una moto da cross, ma è favoloso! Lois, vincerò quel premio. Peter, perché vorresti una moto da cross usata quando hai già una macchina? Un salto nel passato, Lois, quando non c'era cosa più santosa di una moto da cross. E poi su una di quelle sarà un vero banchetto di passere. Non lo so, mi sembra solo stupido. Peter Griffin con la moglie Lois, se vogliamo mettere come coppia da associare e paragonare con la coppia dei Simpson, hanno qualcosa di più e qualcosa di meno. Lois in realtà ha un passato turbolento, ai tempi dell'università era una ragazza che si concedeva, è bella, non disdegnerebbe comunque di avere altre avventure. Peter è un vero criminale, secondo me, è il tipico criminale che tu non te lo immagini capace di essere un serial killer. Ma i Griffin nascono dopo i Simpson, sulla scorta del successo dei Simpson, e inevitabilmente ne riprendono molti elementi. Sia loro sia probabilmente il piccolo Stewie sviluppano verso territori che all'interno della storia dei Simpson non erano stati portati avanti. Loro hanno tre figli, hanno Meg, che è una ragazza piena di problemi, che odia il padre, odiata dal padre, passa tutte le turbe e tutte le patologie dell'adolescenza femminile. Al figlio Chris, ragazzo obeso, anche lui vittima del padre, li odia questi figli. E poi c'è Stewie è un mostro, vero capolavoro, è un vero mostro, è un neonato che parla, che però il suo parlare lo capisce soltanto il cane con cui ha un rapporto, Brian, con cui ha un rapporto viscerale ma anche molto ambiguo. E che nasce, all'inizio voleva uccidere la madre, il suo scopo era uccidere la madre, poi in realtà fa di tutto, diventa capo della mafia, diventa un assassino, un serial killer, è di tutto. Sì, ma la sua essenza di mostro è probabilmente mostro è dell'essere adulto, è dell'incarnare desideri e atteggiamenti adulti all'interno, appunto, in un corpo di bambino, che lo porta ad esprimere una cattiveria che probabilmente i bambini hanno. Noi non vediamo, ma le sue parole in bocca a un adulto sarebbero semplicemente sgradevoli, inadeguate, censurabili. Lui è veramente soprannaturale. Allora, qua invece, più che parlare dei genitori, di cui abbiamo già dettagliato quelli che sono i limiti, Forse proprio su Stewie la vera novità, il vero senso di attenzione dei Griffin. Io ci vedo una meravigliosa rappresentazione anche qui del momento dell'onnipotenza dell'infanzia, che si fa oggi, secondo me, una delle caratteristiche tipiche proprio della formazione psicologica dell'individuo, no? Questo senso di onnipotenza che ovviamente diventa debordante in Stewie, nel suo caso ovviamente si esprime attraverso tutti questi giochi che lui fa, che si inventa, dove vuole essere violento, dove vuole distruggere il mondo, dove vuole sequestrare le altre bambine, dove vuole sottomettere tutti attorno a sé, cosa che poi fa nella vita reale attraverso una sottomissione nei confronti della madre. Il suo problema è che quando se la fa addosso la mamma deve cambiargli il pannolino. Certo, perché poi ovviamente tutto deve rientrare in una logica di energia e controenergia, e quindi queste grandi onnipotenze si riduce poi nella verità, nel fatto che questo bambino non ha nessuna reale possibilità di perché il suo limite vero è il corpo. Esatto. Perché in realtà lui ha una consapevolezza totalmente da adulto, esatto, e lui esatto, è in grado di imbastire trame che arrivano a distruggere il mondo. Poi di fatto ha bisogno di essere accudito. Lui dice: non mi cambiate il pannolino, c'è un problema organico, sono fatta addosso, qualcuno me lo deve cambiare. Sì, l'ironia del mondo si accanisce su di lui, non dandogli la possibilità fisica di mettere in scena il suo carattere. Ci fermiamo un attimo, preparate, che poi voglio parlare un attimo di Brian. C'è un cane in questa famiglia che in realtà è innamorato della padrona, quindi è una cosa veramente, veramente folle. A tra poco. Faircam Air Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Stavamo analizzando il modello familiare distruttivo deleterio, quanto di peggio uno possa immaginare, che viene rappresentato, ma creando cilarità, divertimento, non senso di disgusto, in alcune serie di telefilm animati americani. Abbiamo parlato dei Simpson, stiamo parlando dei Griffin. Nei Griffin, la famiglia di Peter Griffin, una famiglia in cui c'è anche lì un padre scioperato, quasi nulla facente, sia un lavoro, ma un lavoro che rischia di perdere ogni istante, c'è una moglie in qualche maniera dipendente da lui, ma con grandi aspirazioni, era una pianista, avrebbe avuto una carriera artistica, naturalmente frustrata perché deve fare la madre di tre figli terribili, un maschio e una femmina adulti, con tutti i possibili problemi concentrati d'adolescenza, e Stewie, un vero mostro, un lattante con la mente criminale che agisce come un essere adulto, ma è però un bambino. Però c'è un altro personaggio, c'è Brian. Brian è un cane, il migliore amico di Peter, anche di Stewie, con cui ha un rapporto. Stewie ha rapporti molto ambigui. Stewie palesa continuamente una vena omosessuale che non nemmeno tanto nasconde, che esprime anche attraverso il rapporto con il cane. Il cane in realtà pensa come un essere umano, è adulto, è il più educato in quella famiglia. Sì, il cane si inserisce in una grande tradizione di animali parlanti, che però non, più che avere delle lezioni di morale da dare, anche lui ha anche dei pregi che sarebbero magari meno strani in una persona. Lui è un cane, insomma, di buone letture, vuole fare lo scrittore, ha un problema con l'alcol, mi sembra. Sì, ogni tanto sì. E ama le donne, ma tentando di conquistarle, insomma. Vorrebbe in anche, modo, anche la padrona di casa vorrebbe, è segretamente innamorato di lei. Insomma, un approccio abbastanza nobile. Sì, ma una volta riesca pure, Giancarlo, riesce pure a avere un contatto con la padrona. Sì, sì, riesce a scambiarsi un bacio, un bacio appassionato, diciamo. Lui è, secondo me, un discorso di simboli, simboleggia proprio il quarantenne un po' narciso, no? Classico personaggio della società contemporanea. Appunto, vuole fare lo scrittore, ha un manoscritto del cassetto su cui Stewie lo prende pesantemente in giro, e poi partecipa anche a tutte delle i grandi reality, partecipa a una puntata secondo me epica a The Bachelor, no? Dove si innamora poi realmente, non capendo che ovviamente il meccanismo televisivo lo mette in una condizione di finzione, si innamora di una delle protagoniste e poi ovviamente cerca di corteggiarla anche al di fuori del meccanismo del reality, ovviamente prendendo un due di picche. Sì, ma anche qui il problema è che lui ragiona come un essere umano, cammina a due gambe, fuma la pipa, fa letture raffinate, corteggia le donne, però la sua natura di cane è innegabile, poi deve annusarle nel momento del corteggiamento, non può fare a meno di annusarle perché è un cane, perché alla fine non è un essere umano. Sì, ma poi appunto lui si propone come essere umano in un contesto umano che di umano ha un po' meno di lui, per cui il suo limite è anche doppio, perché pretendere di scambiare materiali, insomma, sul piano delle buone letture o di cose simili con famiglie come quelle che stiamo analizzando è difficile. No, no, certo, c'è questo paradosso meraviglioso per cui all'interno di una psicologia abbastanza raffinata, di una visione di sé abbastanza raffinata, poi se arriva un altro personaggio che gli lancia una palla, lui non può fare a meno di andare a rincorrere o portargli la sua insolanza, perché alla fine è sempre un cane. Ma come Stewie, cioè di fatto poi l'organismo ti inchioda a quello che sei. Esatto, quindi c'è sempre questa continua battaglia tra il vero proprio modo di essere, la vera essenza di sé e quello che si vorrebbe essere. Questo devo dire che è una chiave in anteprima, forse anticipo, perché è una serie americana e le tendenze in America arrivano prima di quando noi le metabolizziamo, meno le conosciamo. Questa sorta di rapporto oggi al limite del morboso che c'è con gli animali. Io tutte le volte faccio trasmissioni in cui parlo del rapporto uomo-animale, c'è sempre qualcuno che chiama: io dormo con i miei cani, io amo i miei gatti, io ho una frequentazione quotidiana con le mie galline. Qua già lo anticipa sì, la rottura dell'ultima soggettivizzazione barriera, soggettivizzazione totale l'ultima barriera c'è fra regno animale, cioè fra esseri umani e esseri animali. Ecco, noi anche siamo uomini, siamo animali alla fine, non c'è differenza, siamo d'accordo, però ancora abbiamo rivendichiamo una nostra autonomia, ecco, rispetto alle altre senzienti rispettabilissime specie di animali. Sì, poi non rispondendo gli animali permettono anche di attribuire loro quello che più ci è comodo, che magari ci verrebbe invece negato da altri esseri umani. È il paradosso quando c'è Brian, che è un cane che parla, che risponde, che in realtà devi confrontartici come essere umano, però se gli tiri una palletta decoro per forza a prenderla. A proposito di animali, andiamo nella terza animalesca famiglia che vogliamo analizzare questa mattina. Steve! Mamma! Papà! Non vi avvicinate con quella siringa! Siamo venuti qui solo per parlare. Guarda, la metto per terra. Oh, senti che odore! Stan! Oh, è che non me l'aspettavo. Dall'esterno la casa sembrava così accogliente. Avvicinami la siringa! Ok, te l'avvicino senza fare cose strane. Oh! Allora, American Dad. American Dad è qualcosa oggi che andrebbe molto in voga, è molto trampiana come serie, anche se nasce proprio a ridosso dell'11 settembre, è una sorta di riscossa dell'America dura. Il protagonista è un agente della CIA, lavora alla CIA, tranquillamente va alla CIA, parcheggia la macchina in un posto c'è scritto CIA, agisce come al di là di, nella consapevolezza che lui può sempre muoversi nelle maglie della legge, quindi fa una telefonata, interviene qualcuno, fa sparire un cadavere, mette fuori uso un suo nemico, ha una moglie anche lui avvenente che domina continuamente, una volta l'anno la porta a decondizionarsi completamente da uno della CIA che deve decondizionare, quindi lei dimentica, le annulla tutti i ricordi per poterla manipolare meglio. C'è una cosa anche in questo, è un fervente cattolico, nonostante che non conosca morale, è capace di far uccidere persone nel proprio porto del suo ruolo. Una volta che scopre una meravigliosa crema con il quale capisce che si può masturbare in maniera eccessiva, diventa schiavo della propria masturbazione, come un bambino, si consuma continuamente per questa crema, ritorna una sorta di regressione totale. A te, Dario Magini, piace questa serie? L'hai seguita, l'hai guardata? Ma sì, lui è una serie che nasce dopo il 2000 e incarna altri paradossi che della società americana. Lui è un repubblicano ed è contiene in sé tutte le ambiguità di una posizione forte, moralizzatrice, spesso di condanna, che però poi fa il conto con le contraddizioni interne. E di fatto sì, è giusto quello che dicevi, che anticipa il trumpismo, nel senso che probabilmente lo stesso Trump anticipa il trumpismo, cioè la figura di Donald Trump esisteva già mediaticamente, certo, ma dagli anni 80, ma mediaticamente non solo sui giornali ma proprio nella narrazione. Trump lo vediamo in Sex and the City, lo vediamo in televisione, lo vediamo col suo The Apprentice, lo show che dirigeva, addirittura con i VIP, cioè lui a un certo punto rimprovera gente tipo Gene Simmons dei Kiss. È una figura completamente che vive su un livello pop e di fatto probabilmente ha anticipato anche i suoi anticipatori in questo senso. Giancarlo, tu segui questa serie, le sì, liste? Assolutamente sì. La cosa che viene secondo me in mente da dire è che proprio vedendo questa evoluzione tra Simpson, Griffin e poi si arriva ad American Dad, la cosa bella che emerge è che nella società americana c'è una volontà, una capacità, una forza di rielaborazione del proprio del, come dire, delle contraddizioni, dei paradossi quasi immediata, no? Nel senso, appena cambia qualcosa in quello che possiamo definire forse con un proprio esattamente come immaginario, arriva già chi rappresenta questo immaginario, rappresenta questi cambiamenti. Da noi invece in Italia questa cosa è anche un pochino abbastanza difficile, noi siamo fermi nelle rappresentazioni forse a dei modelli che sono invece completamente anacronistici. Anche nella famiglia American Dad però c'è qualcosa di singolare, di strano, un po' come il cane parlante dei Griffin, come vari altri personaggi laterali dei Simpson. C'è Roger. Roger è l'alieno dell'Area 51, lui come agente della CIA si è portato a casa un alieno, stena a casa, è un mostriciatto come nell'iconografia più classica degli alieni, però ha capacità trasformistica, è un personaggio vero e proprio, anzi ha una sorta di cambia continuamente personalità, è un personaggio attivo dentro quella famiglia. Sì, ma quello è un altro grande filone popolare di narrazione americana che adesso forse sta esplodendo a livelli anche di massa anche qua in Italia, cioè quella, la convinzione che ci sia qualcosa di nascosto da parte dei governi, da parte delle istituzioni. Nel loro caso ovviamente è tutto nell'Area 51, che deve essere un deposito gigantesco. Sì, un giorno gli regalano questo alieno, se lo porta a casa e lo tiene nascosto in cantina. L'alieno può uscire e frequentare il mondo cambiando identità, mascherandosi da uomo, da donna, si inventa dei personaggi fantasiosi, anche molto, molto creativo, molto interessante, ma perverso anche l'alieno, totalmente perverso. Sì, completamente poi come dire, immerso poi nelle dinamiche umane, no? Sin da subito diventa subito un perfetto uomo medio, anche lui che ama le serie televisive, ama le telenovelas, e anche lui rientra come personaggio, secondo me, in questo grande immaginario americano di avere l'extraterrestre nel giardino di casa, no? Come per E.T., fino appunto a questa presenza che deve essere perennemente nascosta perché non si può vedere. C'erano anche delle altre serie, mi pare ci fosse un altro telefilm americano dove arrivava, si chiamava Alf, dove c'era proprio un alieno che arrivava dentro casa e non si faceva uscire, c'era paura di farlo vedere, che immediatamente si era inserito nelle dinamiche umane. Anche lo tengono nascosto, c'è sempre l'idea di avere un alieno nascosto. A me è capitato per questioni di lavoro di occuparmi dei Simpson, per questioni di pubblicità, insomma di comunicazione, e la Fox che li trasmette in Italia, arrivarono delle segnalazioni una volta su una bestemmia che era stata ascoltata all'interno di una... non l'abbiamo trovata, però per una settimana tutti a cercare quale fosse la bestemmia. Ma in inglese o in italiano? In italiano. Nel doppiaggio? Sì, ma era sicuramente un qualcosa legato a una battuta su Flanders, non è possibile. Oltretutto poi i Simpson sono doppiati da Mediaset, per cui è ancora più controllata la cosa. Beh, c'è un periodo in cui Homer Simpson parla con Dio, conosce Dio, ha un rapporto personale con Dio, è gigantesco, sta in mezzo alle nuvole, è un Dio Homer praticamente. Sì, ma no, è indubbio che ci sono... Ecco, Dio Homer già potrebbe essere presa come bestemmia, se vuoi. Ci sono sviluppi che in una serie italiana è difficile, forse adesso, non lo so, adesso ci stiamo un pochino sciogliendo, ma era impensabile negli ultimi 20 anni. Ma infatti è sempre stata tenuta come qualcosa che c'era ma non se ne parlava nemmeno troppo. Ma forse nemmeno sarà troppo capita da tutti quelli che poi l'hanno... Perché i Simpson sono diventati un po' come i libri di Umberto Eco, qualcosa di cui tutti parlano, probabilmente se andassimo... Sì, ma non li guardo. Ma indagare... è chiaro che ci sono mille livelli di fruizione, no? Si può vedere semplicemente l'effetto comico diretto della sceneggiatura, oppure si può vedere una creazione simbolica intorno a una... Ragazzi, noi siamo una repubblica fondata su Susanna tutta panna, Calimero Pulcino Nero e su Topo Gigio. Non ci meravigliamo se ancora i Simpson non sono ben capiti. Alla prossima.